Bene, siamo rientrati in diretta dopo ovviamente aver mandato, come eravamo d'accordo con voi ascoltatori, dalla fine della prima parte della trasmissione, lo stesso brano che era stato tranciato come prevedevamo da ovviamente l'inserimento del GR di Radio Popolare Network. Abbiamo, ricordiamo per coloro che si fossero messi in ascolto solo in questo istante, che siete collegati a Radio Città del Capo, Radio Metropolitana, 451 frammenti sonori, che stasera affronta il tema di Impro 00. Dunque l'impro che abbiamo inteso, e frammenti chiaramente di varie progettualità nel decennio appena trascorso, e abbiamo aperto con Wolf Eyes per arrivare poi a Taliban e appunto aggiungere Anthony Pateras, che abbiamo riascoltato interamente dall'inizio in apertura di questa seconda parte di trasmissione. Abbiamo fatto anche un paio di interventi telefonici, una cosa abbastanza anomala per noi, ma collegati a una rassegna che seguiamo da 10 anni, al decennale anche Netmage, come noi, guarda il caso della vita, e dunque abbiamo fatto un piccolo intervento telefonico con il direttore artistico Andrea Lissoni, che ha parlato un po' della rassegna e delle proposte musicali di quest'anno. In più abbiamo intervistato l'artista italiana connessa a tutta la scena della sperimentazione, Daniela Cattivelli, che abbiamo intervistato sempre telefonicamente. Tornando al punto del progetto di Anthony Pateras, musicista assolutamente eclettico, uno degli artisti degli ultimi anni e dunque degli anni zero più interessanti e poliedrici, piuttosto aperti a ogni tipo di sperimentazioni. Abbiamo cominciato a conoscerlo negli ultimi tempi sempre in maniera più approfondita. Adesso abbiamo ascoltato un brano tratto dal disco Zadik Chromatophore, uscito nel 2008, con questa sorta di composizione che spazia fra contemporanea, rumorismo, elettronica e impro, estremamente aperto, piuttosto originale nella grana sonora e anche nello sviluppo o nel non sviluppo organico, appunto connessa anche a una forma di improvvisazione all'interno della composizione stessa. Formazione che ha visto la presenza in questo disco, oltre allo stesso musicista Anthony Pateras, che è un pianista ma che lavora spesso con piano preparato alla Cage maniera, come ci ha insegnato il grande John Cage, anche la presenza di altri musicisti come Anderson al contrabbasso e alla viola, Weltenheim, e altri musicisti che fanno parte di una piccola microorchestra che lavora appunto all'interno di questo album, dove si sono anche ascoltati nel brano che abbiamo ascoltato poc'anzi, delle degli inserimenti elettronici è molto molto anomale all'interno di una strutturazione così, così connessa ad archi, ad orchestre appunto di archi. E da Anthony Pateras, che appunto sicuramente andremo ancora a ricercare all'interno di 451 frammenti sonori nel futuro, un artista che ci interessa particolarmente, andiamo a proporre un altro artista piuttosto particolare che abbiamo voluto inserire all'interno di questo contesto di stasera. Sì, beh, se con Pateras si va dentro il mondo di giovani autori che appunto si improvvisano, potremmo dire, facendo un giochino anche così banale di parole, visto che questa sera trattiamo proprio di improvvisazione, sicuramente con Sainko Namchilak andiamo invece a trovare uno dei personaggi sicuramente più importanti per quanto riguarda la sperimentazione vocale degli ultimi decenni. Se spesso in questi anni, anche giustamente, finalmente si sta facendo un gran parlare di Demetrio Stratos con film, documentari che finalmente stanno riuscendo, ristampe e quant'altro, sicuramente parlando di lui andiamo anche a parlare della Sainko, appunto Namchilak, perché Stratos partiva proprio dal canto mongolo, una appunto dei suoi primi, delle ricerche basiche di Stratos era il canto bifonico, appunto quello mongolo, e quello che sperimenterà una sorta di sacerdotessa musicale, oltre che essere appunto una delle più strepitose interpreti e anche come dire ricercatrici sonore rispetto appunto alla sua terra, la Mongolia, soprattutto alla penisola di Tuva, dove appunto si è sviluppato questo canto assolutamente straordinario, che ha influenzato molta improvvisazione, molta sperimentazione sui generis, ecco. E con Sainko si va a incontrare anche un mondo del tutto particolare, soprattutto quello inaugurato in questi ultimi anni, perché in maniera incredibile un artista che per molti versi potrebbe considerare tradizionale, poi in realtà si è data l'improvvisazione per molti versi anche radicale, con un grandissimo, se prima citavamo Dirk Bailey tra i grandi padri dell'impro, sicuramente Van Parker da mettere insieme al grande Bailey. Parker che in maniera assolutamente inedita sperimenta con Sainko Namchilak ed esce un lavoro veramente straordinario per spiazzamento musicale, appunto una tradizione che viene reinventata. A questo punto poteva starci anche bene in qualche trasmissione fa di 451, appunto su le tradizioni reinventate. Di fatto così è, una improvvisazione che si arricchisce di un canto tradizionale che non è affatto tradizionale, perché tuttora riesce ancora a informare sulle sperimentazioni vocali, e appunto la grande poetica improvvisativa eccezionalmente sempre ricca di Evan Parker, Nomad, e non è un caso che si chiami così l'album, sì, sia per un senso musicale che per un senso anche geografico, un popolo mongolo è famoso insomma per il suo nomadismo in quella terra. Sì, oltretutto anche questo credo sia della Leo, pensavo fosse della Zale. E tra l'altro prevede un altro grande che non sarebbe sfigurato qua, hai fatto bene a ricordarlo, perché va da Leo Smith, è uno degli altri grandi dell'improvvisazione, forse sì, potevamo mettere anche l'ultimo così, magari poi recupereremo chissà prima o poi tornerà in futuro, via. Comunque stampa appunto la Sainko Namchilak e Evan Parker per l'area record di Vada da Leo Smith. splendido questo lavoro della Sainko Namcilak, autrice che compiva in questo album Nomad uscito nel 2007 50 anni, ed è proprio un omaggio a se stessa insieme al produttore Evan Parker, che oltretutto è presente anche nelle performance in alcune composizioni, e insieme anche ad altri musicisti che hanno collaborato in questo progetto, musicisti che la stessa Sainko ha utilizzato, usiamo questo termine tra virgolette perché poi non è un'utilizzazione meramente strumentale, ma ovviamente una collaborazione, una progettualità comune anche in altri progetti precedenti. Musicisti che viaggiano tra il territorio russo fino a quello appunto orientale, per arrivare poi anche a collaborazioni americane, dunque estremamente nomade, come l'album appunto è dedicato, autodedicatosi da parte della stessa cantante sperimentatrice mongola. Come diceva giustamente prima il buon Max Macchia, questa musicista è stata anche un punto di riferimento, diciamo, soprattutto le tecniche di canto mongolo da parte dello stesso Demetrio Stratos, che ciclicamente ogni anno viene recuperato, no? E ricercato da vari autori fino a una decina d'anni fa non era assolutamente considerato. Oltretutto gli album da solo dello stesso Stratos erano un po' trattati come qualcosa così, un po' in maniera abbastanza poco convincente e convinta da parte dei critici e dei musicisti. Poi invece a distanza di tempo si è ribaltata la situazione nel rapporto tra Demetrio Stratos, sperimentatore tra virgolette solista, e il progetto Aria. Anche per la Namcilak comunque rimane un punto di riferimento anche per molti musicisti che hanno ripreso e recuperato un certo tipo di sperimentazione che parte da un canto tradizionale per poi stravolgerlo e renderlo assolutamente presente nel tempo e nella storia musicale anche di quest'ultimo decennio. Questo disco uscito nel 2007 sta proprio dentro questo tipo di ragionamento. Dalla Namcilak andiamo a trovare un altro progetto che si muove su un'idea di impro, ma sicuramente differente come attitudine, ed è una formazione comunque assolutamente importante che nasce addirittura negli anni 80 e si sviluppa successivamente come progettualità molto più pregnante. Stiamo parlando di Furt, situazioni che sicuramente vanno a riguardare un impro decisamente nuova per quanto riguarda un approccio sia al mondo dell'elettronica sia al mondo che si vorrebbe ancora legato per alcuni versi al mondo jazzistico. Diciamo che buona parte dell'improvvisazione parte proprio da quel meraviglioso modo, quella meravigliosa attitudine che già i jazzisti molti decenni fa iniziarono. Poi è diventata, soprattutto in Europa, anche con proprio l'emigrazione fisica, quindi di vari free jazzisti in Europa e delle associazioni tipo nate a Chicago, ACM ad esempio, una sorta di musica appunto che andava oltre anche al jazz, addirittura oltre anche a quel free che aveva spinto così in avanti, così a eliminare quasi quella forma musicale, e quindi dentro operazioni musicali sicuramente con quell'ombra jazzistica, musiche mitteleuropee, addirittura elettroniche, uso degli strumenti in maniera assolutamente non canonica, quindi vicino a molta contemporanea, addirittura qualcuno, abbiamo sentito anche una sorta di pop assurdo dentro Taliban. Furt mettono insieme tutte queste cose, forse manca, ma per certi versi alla lontana si potrebbe anche parlare di pop, forse solo parlare, perché poi non si ascolta poi in particolar modo dentro Furt, anche se in Nuce forse c'è anche un linguaggio più diretto, e sicuramente un'elettronica di grosso impatto e una strutturazione che magari, abbandonando anche quell'idea decisamente vicina anche un suono silenzioso quasi, no? Silente degli anni 90, sviluppato da molti improvvisatori radicali, quasi appunto uno sfiatare dentro gli strumenti, soprattutto appunto a fiato, ma non solo, anche utilizzare in maniera micro varie strumentazioni. Qua invece si va su una sorta appunto di stratificazione anche abbastanza assurdista di appunto vari elementi, e non quindi diciamo stratificazioni micro o flussi dentro queste, ma appunto più un'evoluzione macro di strutturazione, quindi decisamente anche più ricca musicalmente, se questo insomma si capisce come messaggio musicale non qualitativo chiaramente in maniera stretta, ma come appunto nuovo sviluppo dell'improvvisazione, che poi magari qualcuno piaccia di più questo tipo di improvvisazione, questo magari la dice lunga, visto che è anche uno dei dischi più criticati bene del 2009, Furt quindi dal Sense gioiello appunto di qualche mese fa. Yeah.

Mondo veramente variegatissimo quello di Furt, Paul Oberheimer, Richard Barrett, che sì, nuova formazione si potrebbe dire, però di fatto, come accennava prima Eliseo, vengono veramente da lontano, più che ventennale il loro connubio musicale, anche se poi di fatto stanno arrivando all'onore di cronaca da qualche anno a questa parte come maggiori sperimentatori, tra più fantasiosi dentro appunto le improvvisazioni degli anni zero, impro zero zero, come l'abbiamo chiamata appunto questa sera. E Furt appunto ci aprivano e ci informavano su possibilità nuove che sicuramente sono riscontrabili, ascoltabilissime da subito, su quello che può essere una tendenza dentro appunto ancora l'improvvisazione, che può dare insomma grandi, ripeto, aperture rispetto appunto a nuovi percorsi musicali dentro quella così fantastica, fantasiosissima visione musicale che è quella dell'improvvisazione sui generis, che appunto vede i Furt tra i grandi protagonisti di questi anni, come d'altronde un personaggio decisamente interessante come Alan Licht, che appunto stiamo per presentarvi e farvi ascoltare. Eh sì, Alan Licht, la prima volta probabilmente che mettiamo in lista di 451 frammenti sonori questo musicista, che anch'esso deriva da lontano, è iniziato anche egli negli anni 80 in formazioni come Blue Humans, Love Child, Run Run, per poi spostarsi negli anni 90 verso degli album solistici chiaramente a suo nome, solo a suo nome, con chiare collaborazioni con altri musicisti nella scena sperimentale e anche impro. È chiaro che il termine impro non si adatta perfettamente, in maniera perfetta, su Alan Licht, perché Alan Licht lavora su vari filoni musicali, su varie strutture, dal free jazz, e qui ovviamente ci può essere un collegamento soprattutto con il suo grande maestro che è stato Derek Bailey, e anche ovviamente l'ambito minimalista, dove ad esempio anche la progettualità e le performance della Monte Young sono state fondanti nei lavori dello stesso chitarrista. Alan Licht però anche nelle sue poliedriche e variegate sperimentazioni inserisce una forma di impro piuttosto particolare, legata anche a forme rumoriste e appunto improvvisative nell'uso della chitarra, che spesso è manipolata a livello elettronico, costruendo anche momenti di interazione con suoni e metodologie concretiste nel modo in cui lavora, soprattutto nell'album che andremo adesso a presentare, cioè Every Days, uscito nel 2008, dove appunto c'è un continuo modificarsi di ambientazioni e di sonorità per arrivare poi al brano che chiude l'album, che andremo appunto ad ascoltare in parte, dato che è una traccia molto lunga. Alan Licht dunque che apre una piccola parentesi all'interno di questo percorso di 451 frammenti sonori legata all'impro 00, legata e dedicata diciamo all'aspetto chitarristico, dove vedremo anche un altro personaggio assolutamente geniale subito dopo lo stesso Alan Licht. Intanto il musicista e chitarrista Licht con Every Days, album uscito nel 2008. A New Wave to Pay All the Debts da parte di Bill Horcutt, che è un personaggio che anch'esso sta facendo abbastanza discutere dentro sempre quei 3 o 4. Sì, infatti. Sono sempre i soliti famosi 3 o 4, no? Che ascoltano queste musiche, magari ve le propongono anche. Siamo un po' anche contenti, insomma, di essere tra quei 3 o 4, ecco. Ogni tanto, insomma, ci togliamo questo piccolo sassolino dalla scarpa. E Bill Horcutt, personaggio che più che togliere i sassolini dalle scarpe, ha preso proprio dei bei sassoni, dei bei sanpietrini, e l'ha lanciati già alcuni anni fa sul mondo della musica. Harry Pussy era uno dei progetti, ed è ancora, perché ogni tanto poi ritornano a graffiare quella famigerata band di scalmanati, di tossici musicisti, nel senso non di drogati, ma di musiche che veramente portano una sorta di tossicume interiore molto molto profondo. Harry Pussy appunto è stata una delle formazioni negli anni 90 sicuramente più estreme per quanto riguarda il noise, una sorta di demenzialità portata sui lidi di Merzbo e così memore di certi White House. Bill Horcutt invece poi distanziandosi, ma neanche più di tanto, visto che poi è ritornato anche dentro la formazione pochi mesi fa per un altro disco, comunque a titolo solistico lavora invece su una sorta di blues che viene improvvisato con un suono veramente molto urtificante, avevo dato da una registrazione quasi casalinga con anche lì scherzi, tipo la telefonata che arriva in mezzo al pezzo, che sonorizza in maniera così piuttosto dada l'intera faccenda, quindi quella sorta di scarto folle e noise c'è sempre, e poi soprattutto questa grana sonora che rende questo blues assolutamente libero, un qualcosa di assai improvvisativo, assai anche fantasioso, dentro appunto un suono che non è soltanto casalingo, è una elaborazione di questo suono che diviene appunto un qualcos'altro, molto anche interessante per quanto riguarda appunto sonorità che si stanno sviluppando dentro quello che questa sera abbiamo appunto chiamato Impro 00, che sicuramente porteranno a risultati anche notevoli, se non che Bill Horcutt farà ancora dischi di questo spessore, come appunto questo A New Wave to Pay All the Debts. E parlando invece di mostri sacri, più legati forse al jazz, assolutamente all'impro jazz. All'impro jazz, Mats Gustafsson, che è passato diverse volte qua su 451 Frammenti Sonori, non di persona ma virtualmente, non si sa mai che un giorno ci troviamo Gustafsson, però non è detto neanche che noi abbiamo voglia di averlo in radio, bisogna anche vedere queste cose. Perché svedese. Eppure un bello uomo, via, dai. Sì, sembra un po' George Clooney. Sembra un po' George Clooney svedese, molto interessante. Vabbè, dopo questa piccola divagazione estetica, Mats Gustafsson, musicista assolutamente eclettico nel modo di lavorare, soprattutto sul sax, che è il suo strumento cardine, usa una tecnica assolutamente particolare, nel senso che tende a utilizzare i soffi, i suoni d'aria e appunto dei momenti particolari anche nell'utilizzazione di tutte le chiavi, di tutta la parte proprio fisica, corporea, potremmo dire, forzando, dell'oggetto, dello strumento, e dunque un modo assolutamente inedito di lavorare uno strumento musicale, di suonare uno strumento musicale. Appunto svedese, nato ad Umea nel 1964, nel disco in questione, dove si nota completamente tutta la sua vena legata all'impro, lavora con un altro musicista svedese, David Stakenas, più giovane di lui di ben 10 anni, che invece si diletta sulla chitarra. E poi, oltre a questo musicista, lavora anche con un pianista, per Henry Lindvallin, che oltretutto lo accompagna da molti anni nelle sue sperimentazioni. Gustafsson, appunto, lo conosciamo bene, spero che anche voi l'abbiate conosciuto abbastanza bene, e adesso ci andiamo ad ascoltare un disco realizzato appunto da Gustafsson e Stakenas, uscito nel 2006, Blues, che appunto vogliamo coniugare con Bill Arcat, che appunto lavora su un blues assolutamente deviato, e poi ritroveremo ancora il blues con un altro personaggio meno conosciuto invece di terra francese, intanto Gustafsson e Stakenas. Bene. Benissimo, direi. Abbiamo chiuso con un jazzista che poi si è improvvisato dentro questo blues assurdo, banlieue blues, assurdo nel senso che è un blues assolutamente rivisitato, trasformato e decomposto da questo artista francese non particolarmente conosciuto, ma sicuramente nella scena francese ha una certa rilevanza, musicista che già dagli anni 90 ha portato avanti il suo discorso connesso all'impro, jazz d'avanguardia, con anche delle punte di contaminazione piuttosto forte anche rispetto alla scena della musica contemporanea, un modo di fare impro che in Francia comunque ha delle sue radici. In realtà è canadese, della comunità sbagliato francese, clamorosamente la comunità francese canadese in Canada, ero convinto fosse francese, sono anche un po' francesi, no, perché il modo di suonare comunque di François Soulet e comunque le sue produzioni sono molto vicine a questo modo della scena impro francese di realizzare appunto le composizioni. Mi ricordano certe sperimentazioni che abbiamo attraversato, ad esempio in progetti connessi all'estetica del suono, dove c'erano anche musicisti che lavoravano con forme collettive verso dimensioni impro. Per questo una scena che poi oltretutto abbiamo affrontato circa un anno e mezzo fa con delle puntate monografiche, ecco, in questo caso canadese, che comunque ovviamente risente di una certa dimensione musicale, di un certo linguaggio musicale ovviamente francese, dato che il Canada ha una stretta connessione, infatti appunto dicevi la comunità francese. La comunità francese. E abbiamo ascoltato questo disco da Banlieue Blues, che anche il titolo ricorda appunto la dimensione francese delle banlieue, è chiaro anche dal nome che è un musicista di origini francesi, e un disco che comunque dà l'idea appunto di una forma impro che è, diciamo, un po' più canonica di tutti i progetti che abbiamo finora ascoltato, direi. E con questo musicista franco-canadese andiamo a chiudere chiaramente la trasmissione di stasera di 451 frammenti sonori, e dunque rimandiamo per coloro che vogliono avere informazioni e anche nuovi stimoli musicali anche attraverso dei video che abbiamo caricato, ad anche andare fisici, no, anche fisici, di andare sul nostro sito che è 451 frammenti sonori tutto attaccato .noblogs.org, ovviamente www, ecco, me lo dimentico sempre, ma www.451 frammenti sonori noblogs.org, e chiaramente avrete tutte le informazioni rispetto alla trasmissione di stasera e quelle anche dei due mesi precedenti, e poi ovviamente anche se volete scriverci c'è la possibilità di commentare o dare pareri, opinioni e anche minacce, dopo anche regali, se volete lasciarci un contributo economico lo prendo io sicuramente, ecco, per l'esistenza esiziale. Anzi, nostra. Io faccio questa proposta, te la faccio in diretta, non la sai ancora. No, volevo chiamare la trasmissione Reddito Minimo Garantito, ecco, quest'anno. Ecco, direttamente. Direttamente, non 451 frammenti sonori, perché non capisco perché nessuno ne parli, oppure se ne parli così in maniera così. Perché è troppo fastidioso parlare di queste cose. Vabbè, certo, non perché dopo. Particolarmente, insomma, non è che vogliamo fare rivoluzione. Vabbè. Neanche quello. Bisogna sopravvivere di radio. Come i cani per strada, capite? I randagi. Una volta c'è in alcune zone italiane c'è il problema dei cani randagi, tra poco ci sarà il problema degli uomini randagi senza reddito minimo garantito. Ecco. Va bene. Aspettiamo il 2012, finisce il mondo. Sì. Va bene, a posto. Buonanotte. Buonanotte. Adesso finiamo noi, per il momento.